Letture di Radio 24. Ce ne faremo serenamente una ragione, ma Bob Dylan non andrà a ritirare il Nobel per la letteratura sabato 10 dicembre a Stoccolma per altri impegni. Era il minimo che ci si potesse attendere da un cantautore così impegnato. Non è dato sapere di quali impegni si tratti, il dentista forse, mentre si sa per certo che erano stati assunti in precedenza. E qui Dylan, davvero impegnato, conferma di non possedere il senso dell'umorismo e la perfidia di Oscar Wilde, che rifiutò un invito causa impegni presi successivamente. Qualcuno obietterà che Dylan avrebbe fatto meglio a ricusare subito il Nobel, anziché degnarsi di accettarlo dopo sfibranti titubanze e poi disertare la premiazione. Anche per le rockstar malmostose dovrebbe valere un codice minimo di buona educazione. Tanto più che gli unici premiati ad aver disertato finora la cerimonia lo avevano fatto perché in carcere o gravemente malati. Ribaltando il punto di vista, questo rifiuto ricade sulla scarsa preveggenza e l'enorme arroganza della giuria. Non si può assegnare il premio più istituzionale del mondo a un atipico come Dylan e poi stupirsi che lui lo accolga con lo stesso entusiasmo che si riserva a una purga. Sarebbe stato più saggio sondarne la disponibilità prima di darglielo. Per fare questo, però, i parrucconi scandinavi avrebbero dovuto ammettere che il Nobel non è un onore irrinunciabile, ma un'onorificenza come altre. Per prudenza, la prossima volta, consiglierei di rivolgersi a un cantante meno impegnato, magari a Pupo. Avete ascoltato l'editoriale di Massimo Gramellini, L'impegnato, dalla Stampa del 17 novembre. Niente vi gusta come pasta, pane, focaccia o patatine? Ora arriva una spiegazione scientifica. Secondo Joo-yun Lim dell'Oregon State University, riusciamo ad assaporarli come un gusto specifico, l'amidaceo o farinoso. Questo si aggiungerebbe ai canonici 5 gusti fondamentali percepiti dalla lingua: salato, dolce, acido, amaro e umami, quello del glutammato monosodico. Come ci spiega Lim, gli scienziati finora pensavano che percepissimo i carboidrati complessi, come l'amido, solo perché le loro molecole sono scomposte dagli enzimi della saliva durante la masticazione in zuccheri semplici. Questi poi sono intercettati dai recettori per il dolce. A scardinare questa teoria, un test. A un gruppo di volontari, spiega Lim, abbiamo bloccato i recettori del dolce e abbiamo fatto loro assaggiare molecole ottenute rompendo l'amido. Le persone hanno individuato comunque un sapore preciso, descritto come di pasta, di cracker o di riso. Insomma, il gusto dell'amido. Siamo quindi in grado di percepire i carboidrati complessi ben prima che siano del tutto scissi in molecole di zuccheri semplici. La nutrizionista e il suo team non hanno ancora trovato i recettori specifici sulla lingua, come esistono per gli altri gusti fondamentali. Ma ha senso pensare che siamo dotati di un sistema che ci fa riconoscere subito i carboidrati, fondamentale fonte di energia per la nostra specie. Avete ascoltato la lettura dell'articolo che sapore questo carboidrato, dal numero di novembre della rivista Focus. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Letture di Radio 24. Nel periodo che va dal gennaio 2012 al 30 settembre dello scorso anno, le commissioni territoriali prefettizie hanno esaminato oltre 230.000 immigrati che si dichiaravano profughi, negando lo status di rifugiato a 112.000 di loro. Ma quasi tutti hanno fatto ricorso e, in attesa del giudizio, hanno comunque ottenuto accoglienza. È possibile e forse probabile che in stragrande maggioranza abbiano bluffato, se non barato. Di certo nessuno di loro è riuscito a dimostrare di possedere i requisiti minimi per ottenere nemmeno la protezione sussidiaria. la formula secondaria d'asilo, che scatta a favore di chi correrebbe il rischio di subire almeno un grave danno se fosse costretto a tornare nel suo paese, anche se ad aspettarlo non ci sono guerre civili, regimi dittatoriali o persecuzioni razziali, politiche e religiose. Del resto, gli stranieri in arrivo nel 2016 da zone effettivamente di guerra, come la Siria o l'Iraq, sono stati appena un migliaio, mentre c'è stato un vero boom dalla Costa d'Avorio, dalla Guinea, dal Ghana. Naturalmente ogni storia è a sé e come tale viene valutata, ma tra il 60 e il 70% degli immigrati da queste zone non vengono accolti perché tecnicamente non profughi. Altrove, per esempio in Germania, Gran Bretagna e Francia, i sedicenti perseguitati che vengono respinti dagli uffici esaminatori sono subito classificati come clandestini o migranti economici. A quel punto possono tutt'al più appellarsi a un funzionario della stessa struttura che in pochi giorni decide sulla loro sorte. Se il giudizio è confermato, vengono riaccompagnati al confine. In Italia, invece, tutto è diverso. Una volta ottenuto il timbro con il no alla loro domanda d'asilo, i sedicenti profughi hanno due strade. O scompaiono nel nulla, da veri clandestini, oppure hanno 30 giorni per presentare ricorso al tribunale civile più vicino. A quel punto, finalmente accolti nel grande limbo, aspettano che la giustizia italiana faccia il suo lento corso. I tempi dell'attesa sono lunghi. In primo grado il tribunale avrebbe 6 mesi per trattare il caso, ma ne impiega almeno 8-10. Poi c'è la Corte d'Appello, altri 10-12 mesi. Infine viene la Cassazione. Così, per circa 3 anni, i sedicenti profughi vengono trattati come rifugiati sospesi, con tutti i benefici del caso. Permesso di soggiorno, assistenza sanitaria, diritto all'istruzione e all'accoglienza in una struttura convenzionata o, in alternativa, un sussidio in denaro sui 35 euro giornalieri, 1000 euro al mese. Nel 2014 ha fatto il ricorso il 73% degli immigrati che si erano visti negare il diritto d'asilo. Nel 2015 la quota è salita all'80%. Poi il trucco si è risaputo e ha fatto l'Amplein. Nel 2016 la quasi totalità dei respinti ha bussato a un palazzo di giustizia. A spanne sono oltre 90.000 procedimenti aperti solo negli ultimi 3 anni. I tribunali sono così intasati da questa valanga di ricorsi che in giugno il ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha ipotizzato una soluzione d'emergenza: creare sezioni specializzate per accelerare l'esame dei ricorsi dei sedicenti profughi ed eliminare il giudizio d'appello, così come accade in Francia, Spagna e Belgio, dice Orlando, dove sono previsti solo 2 gradi di giudizio, un primo di merito e un secondo di legittimità. Forse da noi la proposta di riforma non reggerebbe a una valutazione di costituzionalità. Sta di fatto che il governo Renzi non l'ha presa nemmeno in considerazione. È così che i palazzi di giustizia, soprattutto alcuni, stanno esplodendo. Ovunque è una caporetto giudiziaria che si abbatte su uffici già gravati da un cronico arretrato. Ma è anche un disastro economico per il bilancio della nostra giustizia, perché la totalità dei sedicenti profughi, ovviamente, chiede il gratuito patrocinio, cioè un avvocato d'ufficio pagato dallo Stato. E dato che un processo comporta una parcella sui 900 euro, i 90.000 casi degli ultimi 3 anni hanno fatto sborsare all'erario oltre 80 milioni solo per il primo grado. Per il giudizio d'appello, poi, la parcella va tra 800 e 1.200 euro. Ma dopo un no in secondo grado, spesso il sedicente profugo scompare, ripresentandosi con un nuovo nome e una nuova richiesta d'asilo. E la giostra ricomincia. Si calcola così che le sole spese di giustizia per i profughi respinti costino sui 50-60 milioni l'anno allo Stato, cui poi va aggiunto ben altro: i 1.000 euro di sussidio mensile e gli altri benefici garantiti alle decine di migliaia di migranti che, pur mai riconosciuti ufficialmente come rifugiati, entrano nel grande limbo e contribuiscono al grande salasso. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Maurizio Tortorella, Il grande salasso dei sedicenti profughi, da Panorama del 16 novembre. Le nostre scuole ci permettono di ricevere un'istruzione nel campo delle scienze, della matematica o della storia, ma non offrono la possibilità di ricevere un'educazione in merito al nostro sistema emotivo. Lo afferma Alain de Botton, scrittore e filosofo che vorrebbe che le scuole spiegassero come essere felici, come scegliere un compagno per la vita o come entrare in sintonia con i colleghi. Se ci affidiamo ciecamente all'intuito innato è perché, senza rendercene conto, siamo gli eredi di una visione romantica delle emozioni. Iniziato in Europa nel XVIII secolo e diffusosi a macchia d'olio, il romanticismo è un movimento di idee fortemente convinto della necessità che le nostre emozioni svolgano un ruolo decisivo e incondizionato nella nostra vita. Se ci sentiamo felici, non dobbiamo necessariamente cercare di capire perché. La ragione può ledere o distorcere i sentimenti. Se siamo tristi, non dobbiamo cercare di contenere le nostre passioni. La rabbia deve essere sfogata, non repressa. Per scegliere la persona da amare, bisogna lasciarsi guidare dall'istinto. Il romanticismo era senz'altro animato dalle migliori intenzioni, ma ha avuto alcune gravi conseguenze, perché cercare di esplorare la sfera emotiva facendo esclusivamente affidamento sull'intuito è temerario quanto far atterrare un aereo senza alcuna preparazione. Le emozioni, se lasciate libere e non analizzate, possono coinvolgerci in situazioni controproducenti per quanto riguarda le scelte affettive, la carriera, la gestione stessa dei nostri stati d'animo. Dobbiamo quindi cercare di acquisire una serie di abilità emotive che ci aiutino a maturare una capacità di intelligenza emotiva, qualità che ci consente di gestire con pazienza, giudizio e temperanza i problemi cruciali dei rapporti con gli altri e con noi stessi. Nelle relazioni si manifesta come una sensibilità verso l'umore degli altri, la capacità di comprendere il loro punto di vista. Nei confronti di noi stessi si presenta quando dobbiamo affrontare la rabbia, l'ansia e la confusione in ambito professionale. L'intelligenza emotiva è ciò che distingue coloro che sono schiacciati dal fallimento da chi è capace di accettare i problemi esistenziali con un atteggiamento di malinconia e talvolta una resilienza permeata di umorismo nero. Abbiamo lasciato al caso una delle competenze più importanti, negando a noi stessi la possibilità sistematica di trasmettere un atteggiamento di saggezza, convinti che l'istruzione riguardi solo le abilità tecniche e manageriali. Invece, una formazione corretta dovrebbe comprendere tutti gli ambiti dell'esperienza e credere che ogni nuova generazione dovrebbe capire da sola come funzionano i rapporti è una follia quanto cercare di reinventare le leggi della fisica e dell'economia ogni quarto di secolo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alain de Botton, Andare a scuola di felicità, da Io Donna, del 5 novembre. Ernesto Livera, protagonista dell'ultimo romanzo di Andrea Vitali, è soprannominato Dubbio a causa della sua indole. Non a caso la classica risposta che dava quando gli si domandava qualcosa era «Boh?». La stessa risposta che aveva dato all'età di 13 anni a un cliente che era tornato per la terza volta nell'arco della mattina nella falegnameria di suo padre per chiedergli dove diavolo si fosse cacciato il genitore. Da un anno circa il giovane Ernesto lo seguiva in bottega facendogli compagnia, eseguendo piccole commissioni e soprattutto, secondo il disegno del genitore, prendendo confidenza con l'ambiente che lui gli aveva destinato dopo che ne avesse pian piano appresa l'arte e il comandamento di fare le cose una per volta, se le voleva fare bene. «Boh», aveva risposto. «E vallo a cercare, no?» gli aveva consigliato il cliente con modi tutt'altro che gentili. Se non era in falegnameria, aveva ragionato l'Ernesto, e considerato che il genitore non era uomo di carte e di osteria, non poteva che essere sulla riva del lago, dove aveva posto fisso per la pesca degli agoni che si sarebbe aperta di lì a pochi giorni. Lì, infatti, l'aveva trovato. Ma morto stecchito, metà in acqua e metà sui sassi della riva, di lato alla passerella dalla quale per anni e anni aveva cribbiato l'acqua del lago. Così, a sua volta, li aveva trovati lo spazientito cliente una mezz'ora più tardi, l'uno, come detto, morto. L'altro, l'Ernesto, con l'occhio perso e fisso verso qualcosa che non era di questo mondo. L'uomo gli aveva passato la mano davanti al viso, ma il ragazzo non aveva battuto ciglio. Nel giro di un paio d'ore in paese aveva cominciato a circolare la notizia di quel singolare dramma familiare, padre e figlio morti insieme sulla riva del lago. Un altro paio d'ore e l'informazione si era precisata. Padre morto di sicuro, figlio in gravi condizioni. Gravissime, anzi, quando non lo si era visto comparire al funerale del vecchio. Quando infine, passata una quindicina di giorni, l'Ernesto era tornato tra i vivi, ormai era cosa nota che l'esperienza vissuta aveva scioccato il giovane al punto da trasportarlo per un certo periodo in una specie di limbo, un dormiveglia dentro il quale sembrava non sentire e non vedere e che a tratti veniva visitato dall'incubo di corpi che, secondo la descrizione fatta dal ragazzo alla madre e da questa trasferita al dottore, se ne stavano per metà in acqua e per metà stesi sui sassi della riva, senza dar modo di capire se venissero dal lago o nel lago ci volessero andare del tutto. Il dottore aveva tranquillizzato per quanto poteva la donna, spiegando che l'immagine traumatica del padre approfittava del sonno, dell'abbassarsi delle difese del ragazzo per ripresentarsi, e andava bene che ciò non succedesse anche quando era sveglio, perché poteva capitare. Poi, non avendo altri mezzi, aveva disposto un rigido ricovero domestico dell'Ernesto, alla larga da curiosi e compagnia bella, e quale terapia s'era affidato al tempo, senza poter escludere che, stante la giovane età, il carattere dell'Ernesto potesse patire conseguenze dall'esperienza vissuta. Ragione per la quale, nonostante il ragazzo fosse poi uscito dallo stallo, aveva raccomandato a sua madre, canterina Sbaffi, di tenerlo d'occhio e mai dimenticare, davanti a eventuali stranezze, ciò che gli era successo. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Andrea Vitali, Viva più che mai, Garzanti, 564 pagine, €18,60.